Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno, benvenuti, buon sabato a tutti. Abbiamo Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, abbiamo anche Giorgio De Luca in assistenza e redazione e naturalmente Alberto Pellai pronto per la sfida di oggi. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi sarà una sfida ad alto gradiente termico, un po' come la temperatura che ci accompagna fuori nelle nostre città in questo weekend bollente. È veramente bollente. Andiamo subito a sentire la lettera dei pensieri di padre. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde per intervenire. I messaggi come sempre 349 238 6666. È arrivata l'estate e per noi che viviamo vicino a un centro balneare con enormi afflussi di turisti durante questa stagione, è davvero stupefacente vedere quanti ragazzi spendono molto denaro bevendo drink ad alto contenuto alcolico. Non è che le strade delle nostre città siano affollate di ragazzi ubriachi, non dico questo. Certo è che fuori da questi locali sostano sempre decine, a volte centinaia, di giovanissimi con i bicchieri in mano, che parlano, bevono e ridono. È questo il bere responsabile che tanto viene raccomandato ai giovanissimi? E perché quelli che a me sembrano minorenni tengono in mano calici e pinte colme di bevande alcoliche senza che nessun adulto intervenga o ponga limiti? Insomma, diciamocelo chiaramente. A me come genitore proprio non piace che l'estate sia ormai diventata la stagione a più alto tasso alcolico per i nostri figli. Si può fare qualcosa? E soprattutto chi lo dovrebbe fare? È davvero così, l'estate è la stagione che più di tutte spinge i nostri figli a bere in modo irresponsabile. E voi che educazione al bere responsabile date ai vostri figli? Cosa osservate tra i ragazzi e i giovani della vostra città? Chiamateci e scriveteci. Intanto Alberto, noi possiamo presentare l'ospite di oggi. Sì, abbiamo un vero esperto perché è il professor Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti voi. Bentornato. Professore, che cosa c'è di vero nella mail che ci ha appena scritto Franco? Ma c'è tanta verità e purtroppo anche tanta amarezza, sento. Ed è l'amarezza che si riscontra nel vedere che molti di questi fenomeni purtroppo sono costruiti dal mercato, con una notevole diminuzione della capacità di controllo sia della società che delle istituzioni. Il discorso è che questi comportamenti vengono creati attraverso dei cliché. I cliché vengono, diciamo, culturali, queste mode, si è trendy, si è cool, come dicono i ragazzi, soltanto se si fa le cose che sono imposte dalla moda. Bene, la moda ha imposto, ahimè, che l'alcol è un valore d'uso, quindi in pratica è stato dimostrato anche, e come dice giustamente il genitore, facendo un'osservazione sana, ma è possibile che sia successo tutto questo? Gli adulti si sono distratti per una decina d'anni circa e hanno lasciato che il marketing, l'industria, la pubblicità, spendesse 169 milioni di euro l'anno per la pubblicità di bevande alcoliche proponendo dei modelli. Modelli che oggi i ragazzi sentono come assolutamente indispensabili per mostrarsi più disinibiti, più loquaci, più pronti alle relazioni. Però il problema è che bevono alcol e l'alcol è un tossico, quindi quando fanno questo tipo di ragionamento sentono dire bevi responsabilmente, ma bevi è un imperativo, non è un bere, è una responsabilità. Anche negli slogan c'è qualche cosa di pervasivo che si abbina anche al fascino di splendide pubblicità che propongono belle ragazze, bei ragazzi, successo sessuale, successo sociale. Insomma, se non si beve, come dicono loro, si è sfigati. Quindi i genitori dovrebbero monitorare un po' di più i propri ragazzi, vedere quali sono i luoghi di aggregazione giovanile e soprattutto che cosa si propone in quei luoghi di aggregazione giovanile e fare anche un pochettino di conti in tasca, perché guardate che l'alcol è la cosa più a basso costo, è la droga più a basso costo. C'è stata la relazione in Parlamento sulle droghe, c'è scritto diminuisce del 25% il consumo di droghe, ahimè aumenta l'abuso di alcol, il bere per ubriacarsi, e questo diciamo che è colpa degli adulti, non è colpa dei ragazzi. Alberto, in estate i ragazzi, complici le vacanze, le giornate più lunghe, la voglia di svago, le scuole sono finite, quindi si godono questi spazi, questi tempi con gli amici, ma i genitori, specie se i ragazzi sono maggiorenni, non hanno tanto margine d'azione. Cosa suggerisci? Il professor Scafato ha dato già delle indicazioni per i genitori, ma diventa anche difficile per alcuni genitori. Direi, rilancio tre temi di riflessione per i nostri genitori all'ascolto. Il primo tema è: che percezione avete voi del rischio associato ai comportamenti di consumo di alcol da parte dei vostri figli? Perché magari molte volte noi li vediamo uscire e diamo raccomandazioni sul guidare con attenzione, non salire su automobili dove c'è un guidatore spericolato, non prendete droghe, ma l'alcol rimane proprio una di quelle cose che non è percepita come un rischio reale. E quindi quali sono i messaggi con cui accompagnate i vostri figli nelle loro uscite serali? Il secondo aspetto che credo sia molto importante è che l'alcol, secondo me, è entrato nella cultura dei nostri figli un po' con il concetto di un doping emotivo. Cioè tu esci, se vuoi stare bene, se vuoi divertirti, l'alcol ti dà davvero un aiutino, ti dà una mano, e questo secondo me è un messaggio davvero pericoloso che va contrastato. Quindi come adulti, che genere di contrasto oppure di dialogo critico apriamo con i nostri figli? Terza cosa molto importante: quanti soldi mettiamo nelle tasche dei nostri figli quando escono, per esempio anche in estate, dove sono fuori quasi tutte le sere, e sostenere tutte le sere una serata a base di alcol ha veramente dei costi molto elevati. Che consapevolezza abbiamo noi genitori di questo? In generale, diteci cosa vedete, oltre che nella vostra famiglia, nelle vostre città. Siete colpiti da questo fenomeno? In linea abbiamo Claudio, ci chiama da Bologna. Buongiorno Claudio. Buongiorno, senta, io avrei questa domanda da fare. Il professor Scafato mi sembra che diceva che noi genitori dobbiamo aiutare i nostri figli a insegnargli a non bere, eccetera, eccetera. Che la pubblicità comunque li aiuta ad andare a bere, non è che li disincentiva. Però tutti sappiamo che la pubblicità è un'arma fortissima. Lo so. E quindi noi genitori più di tanto cosa possiamo fare? Secondo me il male è nella pubblicità, che bisognerebbe che capisse qualcun altro che bisogna un pochino ridurla questa cosa, perché non si può dare sempre la colpa ai genitori. È vero che noi siamo i primi insegnanti, però la pubblicità diciamo convince noi a comprare delle cose, figuriamoci ai giovani. Insomma, abbiamo un nemico molto forte, questo che dice Claudio. Professor Scafato, sì. Alberto Pellai, a confronto, professor Scafato. Sì. Beh, il problema è che il nemico, è chiaro che il primo nemico siamo noi stessi se non riusciamo a interpretare l'esigenza, diciamo, di bere nel momento in cui non esponiamo noi stessi e gli altri ad un rischio. Due settimane fa abbiamo fatto la conferenza europea sull'alcol, abbiamo confrontato i dati di tutta Europa, l'alcol continua a essere la prima causa di morte tra i giovani per l'incidentalità stradale, quindi alcol e guida in un contesto in cui tutto sommato uno non dovrebbe bere, anzi non deve bere, questo è categorico, che ne dica qualcuno che ogni tanto dice che si può bere alla guida. Alla guida non si beve, bisogna aspettare almeno 3 ore per ogni bicchiere bevuto. Il problema è che effettivamente le pressioni a bere sono tante, però guardate, qualche anno fa nelle famiglie si beveva soltanto nei contesti in cui si mangiava, cioè si mangiava ai pasti. Oggi come oggi invece la generazione dei giovani adulti, quelli che hanno già dei figli, non sono riusciti a trasmettere questo modello ai figli. Quindi evidentemente se la cultura è una cultura tradizionale, basata sul controllo formale, ci si siede tutti quanti intorno a un tavolo, magari si parla anche, oltre che inviare degli sms, questo che fanno normalmente i giovani, e si cerca di parlare dei problemi anche, non si crea disagio nei giovani, non o quantomeno si diminuisce il peso che i giovani hanno, soprattutto gli si alleggerisce da una sensazione che i giovani hanno, che debbono essere sempre performanti, devono essere bravissimi a scuola, devono essere i più bravi, devono essere sempre con un tono elevato, è il motivo per il quale assumono, giustamente si diceva il doping. In effetti abbiamo lasciato che i nostri ragazzi imparassero a costruire praticamente le proprie emozioni, le proprie sensazioni attraverso una commistione di sostanze. Sono diventati un laboratorio chimico. Mi prendo l'alcol perché così mi dà euforia. Quando l'euforia diminuisce e compare l'effetto depressivo, mi prendo l'energy drink e dopo quello, ahimè, la cocaina, perché faccio questi up and down. È una generazione chimica, non si parla più soltanto di famiglia. Guardiamo la società nella sua interezza, e soprattutto sollecitiamo anche le istituzioni ad una maggiore tutela soprattutto dei minori. I comuni lo stanno facendo attraverso le ordinanze, dimostrando che non c'è bisogno di una legge del Parlamento, perché le leggi quando arrivano sempre molto diluite in Italia. L'Italia è una delle nazioni con il più basso rigore applicativo delle leggi in tutta Europa. Però voglio dire, noi siamo cittadini competenti, facciamo diventare anche i nostri figli cittadini competenti, in maniera tale che vadano in un locale e non chiedano bevande alcoliche se sono minori, e soprattutto istruiamo gli adulti a non dare alcol ai minori, visto che in Italia esiste ancora una legge è abbastanza effimera perché non viene applicata, che vieta solo la somministrazione di bevande alcoliche ai minori e non la vendita. Possibile che in 70 anni, da quando esiste il codice Rocco, nessun Parlamento ha mai avuto un'idea, una convinzione per innalzare a 18 anni oppure per vietare la vendita di alcol ai giovani? Questo dicevano in conferenza europea nel confrontare appunto le leggi che esistono di tutela sui minori a livello, diciamo, di non solo di tutela ma anche proprio di cultura del bere. Andiamo a Paolo da Roma. Alberto, volevi intervenire o facciamo intervenire Paolo? Una sola riflessione velocissima sulla pubblicità dei superalcolici, per esempio, che parla ai giovanissimi. Osservatela con attenzione, è completamente diversa da quella, per esempio, del vino. Mentre il vino è legato a una cultura del sapore, quindi al concetto di degustazione, quella dei superalcolici che parla ai ragazzi è davvero legata ai concetti dell'eccitazione, della sensazione, del divertimento, della disinibizione sessuale. Quindi in qualche modo sposa il comportamento a rischio che viene facilitato dal consumo sregolato di alcol. Ecco, potrebbe essere un bel esercizio da fare con i nostri figli, commentare e provare a leggere in modo critico le pubblicità. È assolutamente uno dei punti di partenza ormai in tutti i programmi di prevenzione. Ecco, proviamo proprio a partire dalla pubblicità per osservarla, commentarla con i nostri figli. Paolo, buongiorno. Buongiorno, gli interventi che mi hanno preceduto hanno praticamente già detto quello che volevo dire. Io sono per l'abolizione totale della pubblicità degli alcolici e dei superalcolici, soprattutto si vede quella dei superalcolici, dalla televisione, come è stato fatto per le sigarette. Non dimentichiamoci che vietare il fumo nei locali, cioè io sono un ex fumatore, ho smesso di fumare, e ricordo con ribrezzo quando nei ristoranti tutti fumavano. Deve essere abolita totalmente la pubblicità, e come diceva adesso l'intervento che mi ha appena preceduto, chiaramente la pubblicità ti mostra che la pubblicità degli superalcolici è molto legata al mondo giovanile, per cui sempre in un contesto in cui si balla, si canta, tutti sono felici, tutti si divertono, e chi beve si vede che è un modello positivo. Ecco, completamente sbagliato, cioè assurdo. Deve essere totalmente abolita. Allora, questa è la richiesta di Paolo, ma devo dire molti dei nostri ascoltatori hanno inviato la stessa proposta al 349-238-6666. Io Andrea da Lice, da Milano. Buongiorno Alice. Buongiorno. Allora, io ho 17 anni. Sì. E quindi diciamo che vivo un po' questa cosa. Sì. Questo fenomeno. E credo che uno dei motivi per cui tanti adolescenti non si fanno consigliare dai genitori quando dicono di non abusare dell'alcol è che la vedono sempre un po' come un'imposizione, adesso va di moda essere ribelli e per cui si trasgredisce. Certo. Quindi secondo me un buon metodo per combattere questa moda è lanciare la moda opposta, quindi io credo che se gli idoli degli adolescenti come i cantanti, gli attori proponessero, cioè incentivassero il non bere, il non abusare di alcol, diventerebbe una moda, e se fosse di moda l'autocontrollo hai ragione, secondo me efficacemente combattere questo fenomeno che poi sta rovinando moltissimi giovani. Hai ragione Alice, io ti ringrazio per essere intervenuta, ci hai fatto molto piacere. Alberto. Sì, volevo chiedere ad Alice cosa succede nella tua compagnia, nel tuo gruppo di amici, cioè siete soliti uscire e poi cominciare a bere oppure no? Ma sì, cioè se si esce anche ragazzi più grandi, secondo me, non è che dovrebbe essere proibito bere. Tutti bevono qualcosa perché è un, credo, anche un fenomeno sociale, però poi quando alcuni poi ne abusano. Io sinceramente non vado mai oltre il primo drink. Cosa succede nella vostra compagnia quando qualcuno alza il gomito? Cioè, qual è la reazione di voi amici che vedete? A volte purtroppo uno magari inizia a ridere troppo e diventa sicuramente si mette al centro dell'attenzione e poi gli altri per seguirlo a volte gli vanno dietro e quindi alzano il gomito anche loro. Quindi c'è questo effetto imitazione. Ecco, questo rimane secondo me uno dei punti chiavi anche della prevenzione, cioè c'è una prevenzione che voi ragazzi potete proprio promuovere all'interno del vostro gruppo, perché il concetto di bere responsabile, che poi la pubblicità prova a sostenere, sta solo nei modelli di responsabilità che voi tra di voi potete condividere. Quindi io penso che tu sarai una perfetta educatrice tra pari della tua compagnia nel momento in cui proverai a raccontare quello che hai detto in radio anche ai tuoi amici. Grazie Alice. Io vorrei salutare il professor Salvatore Di Somma, che è direttore della cattedra di medicina d'urgenza e pronto soccorso della seconda facoltà di medicina, la Sapienza di Roma, e primario del pronto soccorso della medicina d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno. Professore, abbiamo appena sentito Alice che ci ha così portato in un gruppo di ragazzi e ci ha detto: ma quando uno poi inizia a bere un po' troppo, inizia a ridere, gli altri gli vanno dietro. Voi vedete, e lei anche naturalmente in prima persona, che cosa succede ai ragazzi che bevono davvero troppo e arrivano in pronto soccorso. La maggior parte di questi arriva per incidenti stradali, ma ci sono anche se in misura ridotta, ragazzi che arrivano proprio per una sorta di intossicazione, mi lasci usare questo termine, professore? Sì, purtroppo questo è un fenomeno che negli ultimi, diciamo, anni è andato via via aumentando e sempre di più. Cosa succede con le loro famiglie? Cioè, voi quando fate una diagnosi, addirittura magari di coma etilico, comunque di intossicazione, poi per esempio per un minorenne dovete avvertire i genitori, e come reagiscono i genitori alla vostra chiamata? Certo, è ovvio che per i minorenni è obbligatorio immediatamente avvertire i genitori, innanzitutto che appunto il loro figlio si trova in pronto soccorso, e quando arrivano indubbiamente li mettiamo al corrente della gravità innanzitutto del quadro, perché quello che bisogna capire è che l'intossicazione acuta di alcol si può manifestare a seconda della quantità di alcol assunto in vari modi, diciamo semplicemente quella che viene considerata la sbornia, diciamo così, è uno stato di confusione che dipende dalla quantità di alcol nel sangue, noi possiamo dosare immediatamente con un prelievo. Quando invece questa quantità raggiunge valori eccessivi, oltre 400 mg per decilitro, allora si rischia addirittura il coma, e soprattutto le persone più piccole sono più esposte a questo rischio, e questi comi etilici possono portare addirittura alla necessità di intubare il paziente. Quindi la prima cosa da fare e tranquillizzare i genitori sul fatto comunque che un quadro, per quanto grave, sempre risolvibile. È chiaro che queste persone spesso sono completamente disinformate, i genitori, dico, rispetto al fatto che il figlio assumesse dell'alcol. In alcuni casi sono ragazzi che magari per la prima volta hanno assunto una quantità di alcol, quindi sono innanzitutto sbalorditi, si dimostrano abbastanza sorpresi. Questa è una frequente così un frequente riscontro del pronto soccorso. Poi ovviamente a seconda della gravità, in genere questi ragazzi rimangono in pronto soccorso almeno 12-24 ore per l'osservazione, gli stanno apparentemente vicini, poi certo noi cerchiamo di fargli capire che probabilmente l'alcol è stato un momento che è espressione di una sofferenza più globale, e quindi li invitiamo a stare più vicini ai loro figli. Quello che loro dimostrano molto spesso è lo sbigottimento, ecco, questo è la cosa che più spesso noi riscontriamo. Secondo lei, lo dico così a pelle, perché non ci sono dati, voi non potete seguire naturalmente i ragazzi dopo questo episodio, ma questa lezione, finire in pronto soccorso, essere ricoverati per una notte, un grande spavento, l'allarme dei genitori, serve ai ragazzi? Ah, diciamo che questo è quello che noi cerchiamo di dire. Purtroppo, come lei diceva giustamente, noi consigliamo in questi casi dei follow up anche di supporto psicologico, che molto spesso però vengono totalmente disattesi. Quindi purtroppo ho paura che questa a meno che proprio il ragazzo non sia malissimo, intubato, eccetera, ho paura che per quanto ci sia il momento di panico poi venga presa un po' come una ragazzata. Sì, ho paura che, perché se dovessi considerare l'aumento dei casi, allora voglio dire, nonostante queste situazioni cliniche piuttosto gravi, se uno processa un'equazione semplicistica non sembrerebbe che c'è un follow up concreto rispetto a questo momento cosiddetto di paura. Professore Di Somma, la saluto e la ringrazio per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, grazie per avermi intervistato, arrivederci. C'è arrivata un messaggio di Renata: potreste parlare di alcol durante le gite scolastiche, credo che è una provocazione che mettiamo da parte per la ripresa. Di settembre. Lancio di nuovo un messaggio forte ai genitori: molti pasticci li fanno i preadolescenti quando si organizzano le loro prime festicciole in casa invitando gli amici, con quest'idea di sembrare subito grandi. Una delle cose che circola sotterranea, perché apparentemente i genitori non lo sanno, sono proprio le bottiglie dei superalcolici. Regole chiare ai figli se casa vostra diventa un luogo in cui vengono invitati anche altri minorenni, figli di altri genitori, perché voi ne siete implicitamente responsabili. E proverei a verificare col professor Scafato quanto il problema è elevato proprio nei giovanissimi preadolescenti. Ma noi contiamo, in relazione al Parlamento, contiamo almeno 750.000 ragazzi che sono al di sotto dell'età minima legale. Il problema, come diceva il collega del pronto soccorso, è che nonostante si consiglino, diciamo, determinate iniziative, poco si fa anche nel Servizio Sanitario Nazionale per intercettare precocemente l'abuso alcolico, il consumo rischioso, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Esistono delle semplici domande, sono tre domande in un modello standardizzato, che qualsiasi medico, anche pediatra, può fare ai ragazzi per cercare di identificare un atteggiamento a rischio. Questo non viene fatto. Le proviamo a fare noi, professore, queste domande? Le domande sono banali. Con che frequenza si consuma le bevande alcoliche? Che quantità normalmente si consumano? E con che frequenza si bevono contemporaneamente più di 6 bevande alcoliche, il cosiddetto binge drinking. Che va molto di moda. Ci sono dei punteggi che vengono dati, si chiama AUDIT, Alcohol Use Disorder Identification Test, e sulla base del punteggio si stratifica proprio, si stabilisce se la persona è a rischio oppure non è a rischio. Però quello che è importante, quando i ragazzi arrivano in un pronto soccorso, poi non c'è nulla che viene offerto loro, si disintossica e si manda a casa. Non c'è un percorso assistenziale o di supporto che viene offerto a questi ragazzi. Nella maggior parte dei casi, noi come Società Italiana di Alcologia, con i colleghi del direttivo di cui sono presidente, da anni diciamo, cerchiamo di fare prevenzione, investiamo in risorse, in personale. Ci sono operatori che si svenano praticamente per riuscire a fare sul territorio quello che è difficile fare contro appunto questa propagazione di questo fenomeno. È un fenomeno che tutto sommato, alla luce di quello che sta emergendo anche in termini di crisi economica, vedrà ancora un peggioramento, perché ad esempio l'altro giorno il British Medical Journal diceva: attenzione, quando si fanno dei tagli per quanto riguarda le manovre, le misure economico-finanziarie, chi ne patisce di più sono proprio i giovani, i bambini, quelli che praticamente hanno un contesto familiare in cui potrebbe essere presente anche il problema dell'alcol. E dicevano: se si tagliano 85 euro al welfare, in termini di investimento per persona, aumenterà del 2,5% le problematiche alcol correlate, pubblicato su British Medical Journal. Allora, il problema è un problema complessivo, non è che si può affrontare semplicemente dando dei consigli. Bisogna effettivamente attivarsi, cercando di far capire che l'alcol è una sostanza che può portare dipendenza. Noi vediamo che ci sono all'incirca l'1% degli alcol dipendenti in carico ai servizi che hanno meno di 19 anni, e non si era mai visto in Italia, che ci sono il 16% delle intossicazioni alcoliche nei pronto soccorso al di sotto dei 14 anni di età, e non si era mai visto in Italia. Allora, probabilmente, effettivamente, i genitori possono tranquillamente dire di non avere nessuna colpa, ma qui non si tratta di responsabilità, qui si tratta della vita e delle opportunità dei nostri figli. Io tutte le notti su Facebook rispondo a tantissime persone che mi fanno delle domande, mi chiedono il perché. Io sono assolutamente persuaso e convinto che la maggior parte delle persone, l'80% delle persone, beve normalmente, e su quel 20% di persone che sono a rischio che bisogna intervenire trasferendo queste buone pratiche, cioè perché le persone sanno bere responsabilmente, sanno bere con moderazione, tenendo conto che la moderazione è veramente moderazione. Le donne non dovrebbero superare un bicchiere di bevanda alcolica al giorno, gli uomini non più di due, gli ultra 65 anni non più di uno, sotto i 15 anni mai. Queste sono le linee guida per la sana nutrizione degli italiani. Una volta che abbiamo in testa queste regole, probabilmente vivremo meglio e faremo vivere meglio gli altri, e soprattutto avremo imparato una norma di convivenza civile che appunto prevede il fatto che quando io mi comporto in una certa maniera sto rispettando il diritto di un'altra persona a essere tutelato in termini di sicurezza, perché non è normale che io debba avere la preoccupazione di attraversare per un attimo nella mia vita la strada di un ubriaco alla guida e purtroppo pagarne le conseguenze. Questo non è tollerabile, perché io personalmente posso anche morire, ma quella persona verrà data un'opportunità ulteriore nella vita, e soprattutto non verranno a quella persona probabilmente comminate quelle pene che in altre nazioni sono molto più evidenti, molto più efficaci, anche quelle educative a mio parere. Allora, io ringrazio il professor Scafato, perché noi siamo in chiusura di trasmissione. Sì, Alberto, lasciamoci con una riflessione. C'è un messaggio molto importante, che ogni cosa che noi facciamo come adulti è automaticamente un modello e un esempio per i nostri figli e i ragazzi che ci vivono vicini. Quindi avere chiaro un modello preventivo in testa e usarlo proprio per guidare i nostri comportamenti, in automatico trasferisce un modello di competenza anche a chi ci osserva. Alleiamoci con altri genitori, facciamo rete, anche in questo caso può essere utile. Intanto noi vi salutiamo, tra poco obbligo di frequenza. Alberto, noi ci sentiamo e appuntamento per il prossimo sabato. Vi aspettiamo.